puntata speciale di Radio Lanterna Pirata. Io ovviamente sono l'amabile Orso Punk di quartiere, come ben sapete. GP, ovvero il Numa Pompilio della scena punkcore genovese, non c'è. Sono tutte cose che abbiamo fatto per un anno e il programma è streaming. No, ma sento all'improvviso un posto, cioè alla direzione di un'altra persona. Sono abituato a professionale. È professionale. Quindi tagliamo, si riparte, tutto il territorio è rotto. No, ma per carità, io non taglio mai. Neanche quando ero in FM e praticamente trasmettevamo musica punk dal bar più fighetto della città dove vivevo, con le bariste. Che con le bariste che praticamente ci insultavano per le due ore di programma. Quindi io sono strabituato. Comunque, insieme a me a condurre, o comunque a fare domande, c'è il diversamente etero Albi e invece come ospiti, come forse avrete già potute vincere dal primo pezzo che abbiamo mandato, ci sono i Carlos Dunga, direttamente da Firenze, mi sbaglio? Sei corretto, Firenze. Uno di Brato, infatti è arrivato ultimo, solo per doti tecniche e non per altro. Non avete trovato di me. Fiorentini non c'erano, bravi. Allora, purtroppo. Presentatevi magari. Esatto, presentatevi, dai. Vabbè, prima quello di Prato. Prima quello di Prato, è Alex. E suoni che cosa? È di Prato. E sei di Prato. Vabbè, ma guarda, basta che non sei di Spezia, poi vabbè. Spezzolando qua non ce n'è, no. C'è il Maca qua per non sentire. Ciao Maca. Poi che abbiamo? Qua accanto a me. Gilberto. Sono al basso, suona da Compiobbi, vicino Firenze, un paese importantissimo, capitale d'Italia. Se vuoi partecipare, in latino, in Compiobbi, in latino significa dove confluiscono i fiumi. Poi che abbiamo? Poi c'è Ivan da Calenzano, Sesto Fiorentino, l'uscita della tua strada. Che subito dici. Puoi dare anche l'indirizzo. Chiamo il numero. Per le pene il numero è 44-266-218. Perfetto. E poi, c'è un uomo con un bottiglione d'acqua credendo che sia Barbera. Sì. Vedevamo tutti, con piacere che fosse Barbera. E invece è solo acqua. Purtroppo è solo acqua. Ciao a tutti, io sono Giuliano, sono il batterista e sono Sesto Fiorentino, pare Calenzano. Adesso dunque abbiamo sentito il primo pezzo Carlos Dunga, preso dal vostro primo 7 pollici, che io mi fregio di avere in versione color vomito. Color cachi. Esatto, color vomito, ho girato tantissime distre per averlo e non ce l'avevano rosso, viola, qui, là, su e giù, vomito non ce l'avevano, alla fine ho perseverato e l'ho trovato. Ma quello è stato venduto tutto alle parrucchieri, casa di riposo come centrini, tutti usano come centrini. Io ce l'ho lì, ogni tanto me lo guardo e dico bene, ho fatto bene a perseverare, perché è un bel colorino, esatto, che panda con mio accendino, che anche quello è dello stesso colore. Comunque, un po' di bio. Un po' di bio vostra. Allora, io siamo un gruppo biologico, a chilometro zero. No, a parte le zero cazzo, Carlos Dunga nasce nel 2006. Nel 2006. E ha avuto diversi cambi di formazione Carlos Dunga. Sei contento? Sì, da un 4-3-3 fa un 3-5-2. Ma poi arriveremo con l'ultimo pezzo, ne parleremo veramente. Io sono pure Doriano, quindi c'è la parte. Comunque siete appunto all'albero di Natale, alla fine siete giunti come schema, giusto? Sì. Prima. Non si sa che la differenza del Milan però noi funziona. Non si sa se mangeremo il panettone come Allegri, però. Bene. Vabbè, a parte le cazzate, insomma, nasciamo tantissimi anni fa, abbiamo fatto un monte di concerti in giro per l'Italia, per l'Europa. Siamo stati in Indonesia. Ne parleremo dopo, perché sennò poi Gibby mi taglia i coglioni. Ne parleremo dopo. Abbiamo avuto diversi cambi di formazione, per ora gli unici membri, diciamo, originali del gruppo siamo io e Gilberto. E il Macca che ci segue dal 95, da quando abbiamo fatto uscire un pezzo per... da quando l'hanno su che giocatore ha vinto il mondiale. Sì, praticamente. E niente, la formazione attuale è composta da noi quattro, Giuliano sono con noi da 2 anni, Ale da 1 annetto. Sono tre. Io ho una concezione del tempo molto limitata. Ha la sindrome di Bob. La famosa sindrome di Bob che a Savona conoscono tutti. il capitano. Bene, bene, bene. Basta, insomma, avete fatto un po' di split, avete fatto un po' un set, uno split, poi un due split. Due split, due split, un 7 pollici un CD, un 7 pollici da soli, una raccolta. Anzi no, tre split, perché c'era anche uno split a quattro gruppi con Lisilote Ridevate, con lui da solo, con Lisilote Ridevate. Ma lui Macca, NDR, almeno lui si capisce, cioè. NDR, si vede. NDR, nota del radiofonista. Giusto, bene, bene, bene, diciamo che siamo partiti bene, quindi agevolerei il prossimo pezzo, che è più punk di Sin Vicious, perché... Sì, che mi ha detto Gippi che farete solo pezzi nuovi, però noi siamo affezionati a quelli vecchi, vabbè. E quindi quelli mettiamo. La vita. Così. Va bene. Bentornati, io ho questa tecnologia perché l'ho presa in prestito al lavoro. L'ho presa in prestito al lavoro, mettiamola così. Comunque siamo ancora qui con Carlos Dunga e una pletora di altra gente che vabbè. Ma Carlos Dunga sono alla fine sono un carrozzone di persone. Sì, hai detto proprio giusto, carrozzone. Carrozzone. Bene, vai Carlos Dunga. Io ho abbastanza una curiosità, perché noi altri si gira abbastanza per il nord Italia e noi l'abbiamo mai e casculo, oserei dire. Esatto, e invece da voi in Toscana non si è mai venuti. Com'è? Che non c'è un caso. La Toscana è bella, c'è le colline, c'è quello buono. Il Lampredotto, di cui io sono un grandissimo fan. Lampredetto, a parlare del cinghiale No, la Toscana è bella, cioè i concerti a Firenze sono belli, erano belli, ora molto meno. Perché non ce n'è, semplicemente. No, ce n'è, c'era uno. Ce n'è? Ce n'è. Molti molto belli, però. E chi organizza? E chi organizza il concerto? Well, qualcuno lo farà, si riparte. Sì, sì, sì, sì. Sta succedendo. No, ma io no. Ma sì, sì. Perché non siete mai venuti a Firenze? Eppure c'è stato molto piacere. A noi male. Ho visto Toscana, vedete che ben fatto. A noi male. No, no. Sì, ma sì, vabbè, ma è giusto perché. Giusto perché, però di solito si va a Piemonte, Lombardia, e giù di lì. E giù di lì. Nonostante sia comunque più o meno uguale, andare a Brescia o Milano, venire a Firenze è la stessa cosa. La Toscana dei Fiori è un po' rara. Comunque credo che di tutto ciò, delle nostre mirabolanti avventure in giro per l'Italia, vero Albi, non gliene può fregare meno a nessuno. E quindi parliamo del prossimo pezzo, che è una cosa che secondo me, come già sapete, visto che vi fermerete forse a casa mia, il prossimo pezzo è Ispro. Ecco, allora rischio e pericolo. Allora rischio e pericolo. Gli ultimi sono stati abbastanza delusi. Vabbè, ma i Kalashnikov, con cosa vuoi? Sono un po' fighette, sono milanesi. Non ci hanno capito. Ispro nasce, diciamo, secondo me, nel periodo clou della sfida diatriba, ecco, pari a She Snowboard FIFA Ispro. Cioè, c'era un periodo lì con la diatriba incredibile. Senza motivo, perché Ispro vinceva la classe. Tra l'altro con Acqua Soccer, che fece il botto nel 96 e poi sparì perché il 2 veramente faceva veramente cagare. Sì, ma perché nacque FIFA 96 in versione 3 quarti, che era meraviglioso. Sì. Era una cosa di giocabile. Geniale. Cioè, lui col primo gioco fatto 3 quarti e poi no, tra l'altro, io me ne ricordo International Superstar Soccer quando ce l'avevo proprio originale, quando uscì su Super Nintendo. C'era poi con tutta la gente che urlava corner kick, il pubblico che il loro canto di incitamento era dire calcio d'angolo. Sì. E comunque, insomma, è un pezzo di, cioè avete scritto una canzone su un pezzo in fondo di infanzia di molti di noi. Certo. Nerd o no, che tra l'altro che non ti si vergogna, posso raccontare un aneddoto incredibile. Che all'epoca io giocavo nella squadra di calcio a 5, no, calcio a 7, e ci si chiamava non c'ho FIFA ma Espro. E da lì capito poi che è nato. E giocavo all'epoca quando è stato scritto il pezzo, che era 2006-2007, non mi ricordo. E il nostro batterista Valerio giocava a calcetto con me. E quindi da lì è nato, in questa squadra qui, quindi da lì è nata l'idea di scrivere il pezzo. Anche se comunque siamo dei grandi fan del videogioco, Giuliano può testimoniare. Anche se secondo me Spro cioè non è gioco da nerd, ma mette d'accordo tutti. È proprio sì, un gioco trasversale. Come la Togrill, te ci passi, ci passano tutti. È come i cavoli, diciamo che mette d'accordo finché ci si mette a sedere e si gioca. Quando finisce la partita, lui si arrabbia spesso. All'inizio mi facciate pure, bisogna essere. Infatti Iva non si cazza mai. Perché dice per forza non sai giocare. Sei buono, che ne cazzo a fare? Zero buono. Bene, bene, dopo questo excursus su un pezzo di storia dell'Occidente, quantomeno dell'Occidente. No, anche dell'Oriente. Invece adesso ci andiamo ad ascoltare una cover che tra l'altro io non l'avrei messa, ma all'ultimo momento Gigi fa sempre queste scelte del cazzo. Effettivamente Carlo Zucca ma come mai questo? Perché proprio quel pezzo? Si incazza? Perché alla fine, allora, la parte finale di Si incazza è Oi. Si incazza. Ma è un debone a favore. Come? È un debone a favore. No, perché c'è sulla fare una cover, c'è una cover degli 883, perché siamo grandi fan di 883. Ma come mai sta cosa qua che c'è un mucchio di gente nei nostri ambienti che è fan di... Perché siamo cresciuti, perché siamo cresciuti con gli 883. Ma anch'io, però a me mi piacciono a bestia. Infatti andrò a mettere tipo la musica dopo la cover degli 883, andrò a vedermi Max Pezzali a Firenze con molto orgoglio, che farà il disco, che farà il tour in cui canterà solo pezzi vecchi, finalmente. E farà anche una cover di Carlo Zunga, tra l'altro. Gira sta voce. Gira sta voce. D'altra parte era uno che andava ai concerti dei Not Moving. Appunto, quindi, no, lui dice... ci può anche stare. Va bene, costretti quindi... a sanguinare, chiave dance, disco, diciamo... Ma sì. La legge del colo, gli effetti marcini. Parlato con un video pieno di donne nude. Unica occasione che hanno la sua vita di vedere. Certo. Infatti se sentite la discografia degli 883, ma Spezzali tromba una volta sola. Negli altri pezzi non tromba mai. Tra l'altro facendo una fatica incredibile, arrivando prima chic, tappetini nuovi, forse non sa nemmeno se tromba, perché infatti è lo stesso che dice solo raffigata con te, ma figata può essere, c'è anche già raccarte. Esattamente. E quindi niente, il tributo dei Carlo Zunga a Max Spezzali. Non va sul gioco che lo gioco con loro. Io gioco e sbro fin da quando parlare. cazzo per dire? No, dicevo, scusa, ho sbagliato il tasto, ma mi... l'hai rubato oggi dal lavoro, devo ancora impratichirmi, ce l'ho da poco questo strumento. Comunque, dopo che dicevo questo, ottima, straordinaria, come tanto più che se un giorno ci sarà un album tributo agli 883, ma guarda, sarete... guarda, invece c'è stato un album tributo agli 883 nel circuito indie rock italiano. Io scrissi una mail per partecipare, mi dissero ormai è troppo tardi. Parla un po', allora ha rimediato così, capito? E fate come vogliamo fare per farci notare anche tre. Noi a tre ci arrivavano, questo c'erano anche i cani. Comunque, vabbè, adesso è il momento istituzionale. Okay. Ovvero, raccontateci un po' del vostro tour in Indonesia. Fai domande più specifiche, perché si vorrebbe dire. Potremmo parlare per ore, sai? Parlate. Tanto registrato. Tutto registrato. Dacci un input almeno. Beh, sì, da dove partire? Da dove dobbiamo partire? Da concerti, dalla vita eccellita? Dall'inizio, partiamo dall'ordine cronologico. Allora, poi arrivate al Pantallotto a Firenze, da Trovano Bella, sempre tu l'Italo Treno. Parlando, tra l'altro, cercando la grande sketch, cercando la password di internet che abbiamo arrivato alla conclusione era la password, secondo noi era DDV 666, che era la password per entrare sulla wifi di Telotreno, perché non c'è stato messo di entrarci nessuno. E poi niente, siamo volati in Indonesia facendo scalo a Doha, dove io ho preso la diarrea subito momenti di alta televisione, alta radio. No, diciamo, siamo arrivati in Indonesia, un numero pazzesco niente, un po' di confusione i primi giorni, perché mancava il furgone, non si trovava, un po' di beghe. Dopo tre giorni scarrozzate a giro con grande motorinata, tra l'altro noi eravamo in sei, dietro ad altre sei persone, ognuno sul proprio motorino. Che lì va tutto in motorino, tipo sì, no, bicicletta a motorino, cioè motorino. Anche perché c'è una congestione di traffico. No, lì il traffico è meraviglioso, cioè è una cosa. Io mi sono innamorato del traffico indonesiano. Che... soprattutto dei Bulma. Cioè, ora non so come funziona il Genova, però la massima. Beh, non come male, no, ma non come no, questa cosa qui, quando c'è le partite a Firenze c'è un monte di motorini tutti insieme che vanno allo stadio, tipo macchine, motorini, motorini, tipo 1000 macchine e 5000 motorini insieme vanno allo stadio, e il traffico lì era così sempre. Qualsiasi strada dalle 8 di mattina alle 10 la sera, sempre così, meraviglioso. Solo prima di pregare non c'era un cazzo di nessuno, poi no, però loro lì iniziano a pregare alle 3.50 di mattina. Però è una metafora a letto. Secondo me è una metafora, cioè la strada rappresentava proprio la metafora della vita asiatica, cioè nel senso lì era, ognuno faceva il cazzo che pareva innanzitutto, però poi c'era uno spirito di darsi mano a vicenda che era incredibile, cioè se uno stava facendo un sorpasso a coglione, cioè contro mano, non è che uno si incazzava, uno inchiodava, lo faceva passare, tutto, cioè pur di non farsi male a vicenda ci si sacrificava un po'. Perché comunque dire, sei consapevole del fatto che perché ti incazzi uno e sta facendo un sorpasso se un minuto dopo lo farai anche te in quella maniera? Cioè, a cazzo. E questa è la filosofia di vita, della strada e non solo. E poi comunque c'era questi orologi rotti che noi si è detto, comunque in ogni caso, in ogni negozio, si guarda rigorosamente, ognuno si chiama in una diversa, io molto profondamente sbagliando, ho pensato magari non rappresentare il fatto che il tempo non conta, tanto che il cazzo delle frega, allora si chiede alla nostra guida, così il nostro figlio ci accompagnava a Bonn, è stato grandissimo, ci ascolterà, un personaggio incredibile, e si è chiesto, ma come mai tutti hanno queste cazzo di orologi rotte? Accomodare di sicuro, pigrizia, e noi siamo caduti di noi, no, cazzo, ci aspettavano una risposta incredibile da guru nella nostra vita, il tempo non ha importanza perché l'amore e l'amicizia, invece no, non scappa via, stava bene, non fregava niente. Mentre invece come la vivono la zia di la questione banca, come stiamo marcismo, non è lui che è sfigato, è lui che fa la vivono. Cioè, c'è chi la vive come noi europei, tra virgolette, quindi anche magari con la questione etica legata al vegetarianesimo, all'antifascismo, a certe idee politiche, e invece c'è chi se la vive giusto suonare concerti, faccio casino, mi ubriaco. Ma il devasto come da noi, non è che come noi, è uguale praticamente. Da noi. L'unica cosa è che come si fonde la cosa con la cosa è che sono solo uomini, l'unica cosa è questa? Che lì ma come si fonde con anche qui, vabbè. Il punk con la loro, comunque con la loro cultura d'origine che non è diciamo la nostra, no, nel senso come fonde... il compromessi e contrasti con la cultura, ma guarda come vivono i punk, come vivono i punk in Indonesia, secondo me vive anche la gente normale indonesiana. Nel senso che cioè loro c'hanno veramente poco, ma quel poco che hanno te lo offrono senza problemi. Cioè loro c'hanno uno e ti offrono due, tutti. Cioè noi andavamo in giro, magari andavamo anche girando, te ne accorgi che comunque la povertà è dilagante, ma quel poco che hanno, cioè, ognuno fa quello che sì, può. Ognuno fa quello che cioè, l'indonesiano medio si alza la mattina e si fa il culo. No, e si fa e pensa come posso essere felice io, ma soprattutto come possono essere rendere felici gli altri. Quindi è tutto un darsi una mano, è tutto un l'esempio più pratico è ora noi siamo a sedere su un tavolo, io metto le mie sigarette qua. Questo qua, significa anche nessuno spigolo. Anche, cioè io metto il mio portafoglio qui e significa che voi tutti potete prendere da qua dentro quello che volete. Senza chiedere. Prendo e metto la birra qui, tutti possono bere. Prendo e metto le sigarette qui, tutti possono bere. Una condivisione totale dei beni che sono pochi, che magari oggi posso avere domani non, e te non hai oggi, e te puoi avere domani e io non avrò domani, e quindi vedi, già, no, già. Fatti risposta, è questo il giorno. Guarda, a proposito di beni, fumo e comunque birra, eccetera. Ma avete fatto provare a tradimento perché quando uno sa che fanno così schifo è a tradimento. Allora l'aneddoto è che noi scendiamo dall'aeroporto e si vanno ai fumatori. Madonna, che puzzo di cannella c'è qui, ma che cazzo all'aeroporto è la cannella? E invece no, erano queste sigarette che non si può sentire in radio l'odore, purtroppo. Per fortuna, no. No, per fortuna. Questo odore qui ci ha accompagnato per 15 per giorni sempre, E invece i posti dove fanno i concerti, che un po' me l'avevate raccontato, abbiamo usato principalmente in sale prove. Sale prove in cui prima di noi suonavano almeno 10 gruppi, quindi contate almeno 4-5 ore di sudata collettiva all'interno di una sala prove chiusa dove fuori c'è 35 gradi con 100% umidità. Dentro il doppio. E suonare era come farsi una sauna. Sì. Forse peggio di una sauna. No, era come suonare in una sauna. Come suonare in una sauna. Uguale. E abbiamo suonato praticamente sempre in costume, senza calzini, senza magliette. Vabbè. Cioè, diciamo, siamo arrivati a questo. Tra l'altro, mentre qua si fa un'intervista, quello di Prato se ne sbatte, ma non c'era. No, la figa. Lui non c'era. Non c'era. Era bravo. Vabbè, bravo. Sai, all'epoca io la chitarra e il bassista degli Alfa, ex bassista fondatore di Carlo Zunga, è venuto a fare, è ritornato un caro non ricordandosi un pezzo, una sorta di reunion. Allora sei scusato, scusa, pensavo che ero male. Va bene, no, ma in realtà lui voleva parlare quanto la lezione, lo volevamo interrogare oggi, però poi e qui e chiudiamo questo racconto, un racconto assurdo di lì. Se hai da fare gli dirai al TDA. Cioè, ognuno dice il suo, allora io dico il mio. Eravamo a fare un'intervista in una radio. Ok, io dovevo andare a cacare perché ovviamente la sciorta ce la siamo presa un po' per uno. La famosa maledizione del faraone. Chi più chi meno. Io quello è il mio periodo di sciorta. E volevo andare a cacare. Praticamente andai dal tipo che ci intervistò, che parlava inglese benissimo, chiedendo di dove era il bagno. E lui mi fa laggiù. Vado e la porta è chiusa. Dico, ma c'era un altro? E lui sì. Dietro c'è un altro, un'altra porta. E lì c'è il bagno. Allora io apro la porta scorrevole, entro dentro una stanza dove dentro non c'è niente. Le mura, il pavimento bianco e una cannellina piccolina. Che io incuriosito dal tipo, scusa, questo è il bagno? E lui mi fa, sì. E io so, come devo fare? È una stanza vuota. Dove? E lui mi indica una gratellina piccola come un fondo di bicchiere con sopra una cannella e lui mi fa, quello è il bagno. Io dovevo cacare, non ho cacato, cioè. Come potevo centrare preciso, cioè, se diventavo un maestro della turca perché e carta la carta comprare l'ha portata a casa, l'ha portata a Giuliano e questo era il racconto di diciamo chi è Ivano Mauro, esatto. Esatto. Tant'altro. Poi, esatto. No, cazzo, no, lui lo Giuliano, lui Giuliano. L'ha pronto, io non ce l'ho. Giuliano. A me è successo uno sketch abbastanza divertente a metà del tour. Avevo visto un tanto di manager, al nostro manager, che avevo bisogno di rilevare, ma ah sì sì, non ti preoccupare. Praticamente un ragazzo un giorno di zona mi ha preso da un motorino, mi ha portato a prendere l'assessore. Però mi fa, durante il viaggio, partimi l'idea di tutto in inglese. Mi fa, si passa a casa mia, si prende il casco perché... È meglio, no? Sì, dice... Safety sì, poi non capivo perché non mi asma, non mi cazzo di fare questa cosa, non me lo sono mai riuscito a capacitare. Quindi. Finita con una rapina. Insomma, si va a prendere il casco, mi porta a sto posto a prendere. Finita così. No. Si vede il casco, mi porta a prelevare a 2 chilometri prima di arrivare lì, mi fa ah ma oggi è domenica, i posti sono chiusi, non si può rubare, non si può prelevare, no. Bene, cioè, ganso, pensavo però me lo potevi dire anche prima, risparmiamo la fatica, un'ora di viaggio, poi niente, allora si fa ah beh, però si ripassa a casa, si riposa il casco, l'hai preso, lo riporti, ovviamente nel tratto tra cui si posa il casco, e lì è l'unico momento in cui passa una volante della polizia, non ci dice un cazzo, allora cioè, si poteva andare anche senza casco. Vabbè, era meglio se finiva con una rapina. Poi racconto quella del Bex, non c'è, io mi ricordo, la mia preferita è stata una sera, sarà a dormire in casa di un tipo e a Becasi, vicino a Jakarta. Insomma, a un certo punto c'era, proprio davanti a casa nostra c'era un rigagnolo d'acqua pulita e quindi zanzare della morte, cioè, ci si stava delle zanzare. Cioè, loro si dormiva su in camera, in terra, ovviamente. Ah sì, dove? Allora che succede? Loro vanno a letto verso le 11, anche prima probabilmente. Cioè, si rimane giù. Guarda chi c'è. Io prima si rimane giù. A un certo punto arriva Giuliano e l'altro bassista. Alle 2, dopo 4 ore quasi era su. Ma che cosa? Fu una guerra, ci si fa a dormire, cioè, le zanzare si muore. Allora vabbè dai, si prova. Perché vado su, dentro il saccappello per proteggersi dalle zanzare con 40 gradi. Una sudata incredibile, ma perché le zanzare sono talmente grosse le senti, si muore. Non è che senti proprio. Muovono e le senti. Io avevo addirittura i tappi e sentivo un po'. Allora noi lì, io mi sono messo la musica. Musica a un certo punto, insomma, zanzare si riesce a rientrare qua. A un certo punto c'è la pacca fuori, non c'è l'assurdo. E ci si mette lì dopo un po', capito, anche alle 4:10 ti sei quasi pronto, la preghiera, 10 metri da casa, vabbè, no, ho messo le cuffie, sono andato a 3 dischi di fila senza dormire. Lo sketch è il pezzo che non c'è, ma va raccontato che noi praticamente siamo andati senza chitarra. Girve che suonava la chitarra e gli altri che avevano comprata lì, e il Pex non voleva comprare il basso, cioè non voleva, giustamente non voleva spendere troppi soldi, e ha passato 3 giorni a cercare il basso e non l'ha trovato, e poi l'hanno portato in motorino facendo 2 ore di strada tipo a rubarne un altro, no a prendere un in una fabbrica, cioè in un negozio a comprare un basso, e l'ho comprato un Fender Jazz Bass americano costruito in Indonesia con un crispolino in più perché c'era 3 volume e 2 e il suo ce l'aveva 4, pagando una bellezza di 80 euro e la corda dell'A è durata 3 concerti. E nel frattempo si è fermato, cioè, un attimo, si è fermato a casa di lui a mangiare con la famiglia, lui non parlava un cazzo di indonesiano, tutti lì. Ma la sorella del tipo bruttissima ci prova, che era lì accanto e faceva un po'. Conoscendo lui che si è venuto un po' sulle sue. Questa è una scena incredibile. Sex lì a mangiare con la faccia sperduta, prima lo guardavo. Ma quello quelli che mi diceva. Bene, forse. Prego. Rumore di sottofondo. Rumore di sottofondo. Rimarrà. È un momento verità. Bene, ce ne va a ascoltare dallo spettro gli Itula Live alla fine dell'inizio. controllo, vero? È abbastanza tranquillo. È abbastanza tranquillo perché voi dovete sapere che Albi è il mio badante. Devo tenerlo duro, ma adesso è tranquillo, perché sopra, solo per... Infatti ha voluto fare l'intervista adesso. Se l'aveva poi... detto prima io non ti saranno contenti alla fine, dire ciò. Gli l'hai rubato almeno. Ma non glielo ho preso in prestito, non l'ho rubato, ho preso in prestito. Dovrei giustificare. No, cosa perché domani scarico tutto su me e lo rendo. E lo rendo lunedì, come no? Come non me lo rendo? Come no? Noi siamo Radio Antenna Pirata. Radio Antenna Pirata, ecco, allora puoi prendere il coso e fargli da lui. Ciao, sono di voi, anch'io ascolto. Io lo metterei, non c'è uno che guarda le cose. No, vabbè, come Tone guarda. Il prossimo. Di cui vi voglio parlare, una cosa che attanaglia metà della Genova calcistica, un problema che ci attanaglia ormai. Abbiamo fatto, non è liberato, abbiamo fatto, no, non è liberato, abbiamo fatto un derby che io a tre quarti di partita ho detto basta e ho spento lo streaming perché col cazzo che si beccano i soldi da me e poi diciamo anche voi e praticamente consiglio non si può. Voi che ce l'avete avuto in un momento anche glorioso, da cui anche narra quasi epicamente le gesta nell'ultima canzone di questa intervista, cosa pensate di Delio Rosso? Chi è per voi Delio Rosso? Sicuramente era meglio di Mihajlovic, proprio a mani basse, cioè quando arrivava lui la squadra iniziò un minimo a giocare, però rimarrà sempre nella storia per quel cazzotto che è stato dato agli AI c'è un momento della sostituzione. Beh, ma comunque voi Delli ha fatto bene. Sì, all'epoca. Anche come allenatore, per quello che aveva. No, anche perché gli AI, secondo me, ha fatto un grande salto come qualità personale da quel cazzotto che preso, sì. Poi ha cominciato a arrivare dritto. Quindi se lui ora alla Roma e segna, deve ringraziare comunque il cazzotto che gli ha detto. Un'opera figlia, diciamo. Secondo me piace un'opera figlia filante. Anche il testo dice appunto timonismi del cazzo del calcio, in realtà il testo dice però vabbè il timonismo del calcio che non glielo doveva dare perché allora l'allenatore zitto e coach lui prendo molto meno di te tra l'altro ho 40 anni più di te tra l'altro le responsabilità sono mie, se vuoi fare schifo a casa io devo avviare un cazzo di mio vedere e poi mi arriva e va rispettato secondo me noi sta facendo cagare la squadra gioca senza grinta, neanche il derby l'ha giocato con la grinta, il peggior derby che anche gente di 60 anni si ricorda, cioè proprio il peggiore perché piuttosto perdere 5-2 ma almeno cazzo almeno giocato ci ha messo la grinta, ma noi l'ha coppiata insomma Mihajlovic e Rossi è riuscito a rischiare la retrocessione con una squadra che due anni prima, un anno e mezzo prima giocava la Champions e fu buttata fuori da un furto lavoroso da parte diciamo. Quindi non è che fece questo lavoro, poi lui veniva da Palermo, aveva fatto bene, era ritenuto una persona indicata. Siamo giunti in conclusione. Da fumatore, questo gli ho dato acqua. Comprava sempre 4 pacchetti, si era un barista, un bandabacchino, si arrivava di prendere 4 pacchetti di cesta di rosso, cioè così. E mastica gomme sempre a masticare perché non può fumare in panchina. Fumerà 2 pacchetti di cesta. Se lui fumerebbe la foto del repertorio, perché per chi non lo sa siamo noi a fumare nella smoking lounge dei vari aeroporti citazione Simpson in cui c'è foto del repertorio ma si è accendo quella sigaretta in foto Rockman fanno dei servizi su di lui c'è foto del repertorio c'è lui con 1000 cicchini mai fumato e noi fumavamo tipo 5 pacchetti 5 sigarette in 10 minuti nelle smoking lounge tra l'altro quelle sigarette di cui già quelle sigarette abbiamo fumato anche prima la sala del canto, detta anche sala del canto. Sala del canto. Bene, siamo arrivati in conclusione, volete ringraziare, salutare e mandare a fare il culo qualcosa? Io voglio mandare a fare il culo l'Antenna Pirata, grazie. Ci tenevo a farlo. Bravo. Io volevo la voce del popolo, non volevo ringraziare nessuno. E basta con le rockstar. Devo ringraziare qualcuno di me. Io volevo ringraziare proprio tutti, in realtà. Perché alla fine penso, alla fine banco voi. Ringrazio voi dell'intervista, ringrazio gente che era concerto, inspiegabilmente tuttora. Viene a concerto, ci sostiene. Ringrazio per le birre che ti berrai e ringrazio per le birre che mi sono bevuto famosissima frase del Gib, citiamola perché ne vale la pena. Bologna l'anno scorso, quando si era stato in questo posto in cui si doveva fare la tessera, e si era a bere io e lui al balcone, e il tipo fa: ragazzi, quando avete finito di bere potete andare a fare la tessera. E Gib: tendenzialmente in questo momento potrebbe non arrivare mai. Bene, bene, bene. E quindi niente, sarà un after show spumeggiante. Dunque, anch'io vi salutiamo, speciale questo qua di Radio Antena Pirata. Chissà se ce ne saranno altri, chissà se ce la faremo, e chissà se la nostra rockstar si degnerà. Lunga vita all'Antena Pirata, allora, diciamo. Si degnerà di partecipare anche là alle prossime interviste, ma nessuno lo sa. Comunque, grazie Carlo Sdunga, grazie al Macca che è intervenuto. Tu sei vegetariano, sì. E quindi niente, non la mangi, c'è lo strutto. Ciao a tutti.